30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha inviato una lettera segreta al suo omologo russo Dmitry Medvedev. Nello scritto suggerisce uno scambio. Lui, Obama, avrebbe dato ordine di sospendere il dispiegamento dello scudo spaziale in Europa orientale, mentre Mosca avrebbe sospeso ogni aiuto all'Iran per lo sviluppo del suo piano missilistico di lungo raggio. Quei missili, insomma, che possono portare armi, anche nucleari, a colpire gli alleati dell'America nella regione, a cominciare dallo Stato di Israele. Buonasera e benvenuti a 30 minuti in cronaca, il programma che si prende il tempo di riflettere su una delle tante notizie che corrono veloci nel nostro panorama informativo. Ciò che vi ho letto è la sintesi dell'articolo apparso su The New York Times di lunedì 2 marzo, firmato da Peter Baker. Un'indiscrezione che non viene smentita dalla Casa Bianca, piuttosto corretta, e che Mosca conferma, smentendo comunque qualsiasi proposta di scambio. Un atto di cortesia? Una proposta? Un segno di debolezza, come pensa qualcuno? Molte e diverse le interpretazioni. Di certo il segno di una volontà del 44esimo presidente degli Stati Uniti di avviare un dialogo. A capirne di più ci aiuta oggi Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera, buonasera Gigi, eccoci. Eccoci dunque, naturalmente un collegamento in diretta da Washington, quindi dai luoghi in cui le cose accadono. Veniamo subito alla nostra lettera. Lettera dalla Casa Bianca, destinatario il Cremlino. Innanzitutto, è normale, è una prassi normale che a meno di 4 settimane dall'insediamento il presidente scriva a Mosca? Beh, direi è normale che ci siano degli scambi di missive fra i leader, soprattutto su questioni ovviamente delicate e importanti, e soprattutto quando c'è a Washington, dove, come hai detto, mi trovo in questo momento, saremo sempre più spesso, credo, qui a Washington, perché è qui che poi le cose si stanno muovendo in questo periodo, c'è una nuova amministrazione, dicevo, che si sta muovendo con straordinaria rapidità. Obama vuole portare la palla in avanti, lo sta facendo su ogni fronte, su quello economico, su quello finanziario, ovviamente su quello politico e certamente su quello di politica estera. Il rapporto con Mosca è uno dei rapporti centrali per l'amministrazione, è uno di quelli che lui stesso aveva detto che avrebbe voluto in qualche modo ammorbidire dopo le difficoltà recenti che vi sono state con l'amministrazione Bush, e dunque è normale che una lettera creativa come quella che ha inviato Obama a Medvedev venga inviata in tempi così rapidi. We've had a good exchange between ourselves and the Russians. I've said that we need to reset or reboot. Reset or reboot, Mario. Questo è Barack Obama, appunto. Come ci dicevi, lui ha chiarito immediatamente questo punto che vuole affrontare. Perché parli di lettera creativa? Mi ha incuriosito. Beh, creativa perché in qualche modo lui offre una via d'uscita da questa crisi missilistica con l'idea che ci si possa in qualche modo rimettere in pista sulla questione dei missili iraniani. Quindi è un do ut des, è creativa in questo senso. Forse Mosca non se lo aspettava, forse Mosca non immaginava che potesse esserci una proposta di questo genere. Ebbene, Obama l'ha fatto creativa perché va a chiudere con un approccio della precedente amministrazione e ne suggerisce un altro, creativa perché risponde in qualche modo alle preoccupazioni europee intendo Unione Europea, e quindi Germania, Francia, Italia, Gran Bretagna, e però forse non risponde in modo altrettanto adeguato a quelle che sono invece le preoccupazioni dell'Europa dell'Est. Già, dell'Europa dell'Est dovremmo parlare oggi, ma prima vorrei chiederti, il 2 marzo esce l'informazione, esce questo articolo, bene, come avvengono queste comunicazioni? Sono pilotate, sono un ottimo lavoro di insight del giornalista o è un modo per comunicare e anche tastare l'opinione pubblica americana? Ma guarda, spesso sono cose casuali. Da quel che mi risulta, in questo caso la notizia è uscita prima a Mosca che negli Stati Uniti, e è uscita su un giornale russo con un piccolo trafiletto che è sfuggito a tutti, ma non è sfuggito all'ufficio del corrispondente del New York Times, che lo ha riferito ai suoi in America, e dunque loro hanno subito mobilitato l'ufficio di Washington. Baker ha chiamato sia il Dipartimento di Stato che la Casa Bianca, li ha confrontati con questa indiscrezione ed è stato il primo ad arrivare alla notizia e a ottenere quantomeno una conferma informale che in effetti le cose stavano così. Quindi spesso le cose avvengono anche in modo casuale, non necessariamente forzato. Ecco, l'amministrazione naturalmente si è prestata il gioco. Perché? Perché ha voluto puntualizzare che c'era la questione dell'Iran anche in ballo, cosa che nella versione russa ancora non era uscito, quindi diciamo c'è stata questa puntualizzazione. L'opinione pubblica americana come reagisce in questa fase a un dialogo con Mosca? Ma direi l'opinione pubblica americana, come sai, è oggi preoccupata da ben altre cose, domina l'economia, dominano i problemi della disoccupazione, domina insomma una storia drammatica che in questo momento riguarda l'America. Le questioni di politica estera sono un po' più lontane, però certo un riscaldamento della relazione con Mosca desta sempre, suscita sempre interesse. D'altra parte, è così, ecco, direi the jury's out, come si dice in America, cioè dovremmo capire se questa è una situazione in cui gli americani, davanti all'ammorbidimento di Barack Obama, perché poi di questo si tratta dopo la linea dura di Bush, insomma, forse vale la pena di ricordare un attimo la dinamica. George W. Bush a un certo punto annuncia in modo unilaterale che si creeranno delle basi antimissili in Polonia e nella Repubblica Slovacca e che queste basi serviranno per proteggere l'Europa e la stessa Russia da possibili attacchi in arrivo dall'Iran, perché l'Iran non solo sta lavorando a una bomba nucleare, ma sta anche lavorando alla costruzione di missili balistici che questa bomba dovrebbe poi portare e che potrebbe raggiungere, si è calcolato che i missili che stanno preparando gli iraniani potrebbero arrivare nel cuore dell'Europa o comunque ai margini del cuore europeo. Quindi Bush ha, diciamo così, colto la palla al balzo per fare questa proposta. Proposta che però si inquadra anche in un altro contesto, cioè quello delle relazioni est-ovest. Naturalmente paesi come la Repubblica Slovacca, come la Polonia, l'Ungheria e tutti i paesi dell'est erano ben felici di avere un'installazione militare di questo genere sul loro territorio, perché si sentivano più protetti vis-à-vis una Russia che si faceva sempre più aggressiva. Quindi c'era una doppia dinamica, c'era la dinamica iraniana, ma c'era anche la dinamica delle relazioni est-ovest. Ecco, davanti a questa uscita dell'amministrazione Bush, la Russia ha reagito male e da lì è cominciato il grosso raffreddamento che ci ha portato poi fino all'invasione da parte della Russia della Georgia. Ecco, proprio su questo momento, cioè nella scorsa estate, nello scorso mese di agosto, Obama è costretto a prendere una posizione. Today our attention is also on the Republic of Georgia. And Senator McCain and I both strongly support the people of Georgia and the Americans delivering humanitarian aid. Insomma, eravamo in piena campagna elettorale e quindi Obama cita se stesso e il suo avversario McCain. Naturalmente dice: siamo contrari a quanto sta accadendo, Mosca si deve fermare, però insomma lo sdegno durerà molto poco, Mario. Sì, lo sdegno dura poco. È chiaro che ha lasciato tutti esterrefatti quando i carri armati russi, stavo per dire sovietici, ma mi sono corretto in tempo, sono entrati in Georgia. Sappiamo che la Georgia ha provocato anche questa situazione, quindi sappiamo che ci sono insomma degli elementi di complicazione in tutto questo, ma la realtà delle cose è che un paese sovrano è stato attaccato e invaso da un altro paese, che questo paese che ha attaccato e invaso è la Russia. Questo ha riportato i fantasmi del passato in America. Obama ha reagito duramente, ma poi prevale la realpolitik. La realpolitik è appunto quella di in qualche modo rendersi conto che la situazione politica internazionale richiederà pragmatismo. Obama reagisce in modo pragmatico. Ecco, questo è il messaggio che abbiamo avuto da questa lettera. E sta reagendo in modo pragmatico anche la Russia. Naturalmente è aperta, è disponibile, è contenta di questa apertura, ma non vuole che anche i missili iraniani vengano messi in discussione. Il negoziato in sostanza è appena partito. 30 minuti in cronaca. Bentornati a 30 minuti in cronaca. Oggi con Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, parliamo di una lettera, per così dire, della lettera inviata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama al suo omologo russo Dmitry Medvedev, e naturalmente delle conseguenze, o meglio di un percorso che si avvia proprio anche con questa lettera e che tocca tutti i temi fondamentali della politica internazionale. Dicevamo l'Iran. Beh, l'Iran è effettivamente un perno di questa vicenda. Hillary Clinton, pochi giorni fa, sentiamola. We are at the beginning of our engagement with Russia on behalf of this new government. What we have said specifically in regard missile defense in Europe is that it has always been intended to deter any missiles that might come from Iran. Hillary Clinton, dunque il segretario di Stato, è molto chiaro. Il rapporto, abbiamo iniziato un dialogo con la Russia, ma intorno a questo tema è l'Iran che spaventa, ed è stata assolutamente esplicita, Mario. Direi di sì, non aveva del resto difficoltà ad esserlo, perché tutte le prove, l'evidenza che abbiamo ci dicono che ormai per Teheran è soltanto questione di tempo. Dispone già dell'uranio necessario per poter cominciare a costruire le testate atomiche, dispone della tecnologia per realizzarle, sta mettendo a punto i procedimenti per l'arricchimento dell'uranio, che è ancora l'ultima fase, ancora quello che manca a questo suo processo, ma ti ripeto, è questione di tempo. La questione che a Mosca oggi si pongono, anche rispetto appunto alla lettera da cui siamo partiti, è: non è che il presidente degli Stati Uniti sopravvaluti il ruolo di Mosca rispetto all'Iran, cioè il fatto che le tecnologie, sappiamo, provengono essenzialmente dall'Unione Sovietica e dalla Federazione Russa poi, ma proprio la stampa moscovita sostiene forse Obama sta sopravvalutando il ruolo di Mosca, e naturalmente Mosca potrebbe avvantaggiarsene. E no, Mosca è rimasta sempre piuttosto ambigua, non è mai andata fino in fondo, non ha aiutato il quintetto europeo che si è recato più volte in missione. Ricordiamo una proposta straordinariamente interessante di Solana fatta a Teheran già un paio d'anni fa, una proposta che chiedeva all'Iran di rinunciare a questi suoi progetti di ricerca e di accogliere le proposte che l'avrebbero riportata nel contesto della comunità internazionale. Ricordiamoci, ci sono delle sanzioni contro l'Iran, l'Iran non fa parte del WTO, cosa che invece vorrebbe. Ecco, c'era una proposta di normalizzazione con la garanzia che l'Iran avrebbe avuto ed assunto un ruolo importante di potenza regionale, che poi è quello che l'Iran vuole, ma non naturalmente di potenza suprema in quella regione così delicata. Tutto questo è stato respinto dall'Iran e la Russia ha giocato di sponda. La Russia a un certo punto ha offerto la possibilità di arricchire l'uranio per conto dell'Iran e di fornirglielo perché lo potesse usare per le centrali nucleari, quindi per legittime necessità energetiche, ma l'Iran ha rifiutato anche quello e Mosca si è sempre tenuta un po' in disparte. La carta iraniana è una carta importante che Mosca può giocare. Altro punto, insomma, l'Iran è in qualche modo isolato, ha bisogno di avere un gioco di sponda con qualcuno, finora l'ha trovato più in Mosca naturalmente che con l'Occidente, anche se Mosca naturalmente resta dell'idea che l'Iran non deve diventare una potenza nucleare. L'Iran è in gravi difficoltà, non dimentichiamolo, noi immaginiamo che questo paese produttore di petrolio non abbia problemi energetici e invece ce li ha, la sua produzione basta a malapena a soddisfare il fabbisogno interno, le sanzioni cominciano a funzionare, la popolazione iraniana comincia a essere un po' agitata, presto ci saranno delle importanti elezioni politiche in Iran e dunque questo quadro diventa un quadro non secondario in cui, se la Russia dovesse scendere sul campo in modo assolutamente allineato con le potenze europee e occidentali, se insieme dovessero far passare una risoluzione alle Nazioni Unite dura, incisiva, chiara, ecco, allora forse qualche cosa si può ottenere. Ecco Mario, se l'Iran rischia, diciamo paradossalmente, di rimanere a corto di energia, a maggior ragione questo è un problema che tocca i paesi che una volta facevano parte del patto di Varsavia, prima l'abbiamo citato, dell'Ucraina, la Slovacchia, a nord fino all'Estonia. 10 anni fa c'era la fase della grande fuga, gli ultimi anni sono stati segnati dalle rivoluzioni arancione o da quella appunto georgiana. Oggi la situazione appare radicalmente cambiata. Sì, devo dirti che una delle cose che mi ha colpito di più in questa lettera di Barack Obama a Mosca è l'improvviso cambiamento politico nei confronti dell'Europa dell'Est. L'Europa dell'Est ha avuto un momento di boom in questi ultimi 20 anni, in uscita dalla caduta del muro di Berlino, i paesi si sono rimessi in piedi, le economie sono andate benissimo e tutti questi paesi hanno stabilito un rapporto di straordinaria amicizia con gli Stati Uniti, sicuramente di amicizia più forte di quanto non avessero i paesi dell'Europa occidentale. C'era proprio un rapporto molto vicino con l'America in genere, con Clinton prima, con Bush dopo, molta gratitudine nei confronti di Bush che non abbassava la guardia nei confronti di Mosca, che appunto procedeva con l'idea di creare questa piattaforma antimissile, che è intervenuto per restituire l'autonomia al Kosovo, cosa che ha naturalmente irritato moltissimo Mosca. Dunque c'è stata una linea molto chiara, molto diretta. Nel giro di una settimana ho avuto come l'impressione che i paesi dell'Est siano stati improvvisamente scossi, rimessi in disparte, che le parole del leader ungherese che ha detto qua temo che stia per rinascere una cortina di ferro abbiano un qualche fondamento. Perché? Perché al vertice europeo di Bruxelles della settimana scorsa il messaggio che è venuto dall'Europa è stato chiarissimo, questo riguardava le questioni economiche, gli aiuti finanziari. L'Europa orientale è per conto suo, aiuteremo nel caso per caso, si vedrà che cosa fare, ma non ci sarà un approccio sistemico che dal punto di vista economico di questi tempi è invece molto importante. Ecco che subito dopo, il giorno dopo, 2 giorni dopo, giunge la notizia che Barack Obama stacca la spina. Barack Obama è pronto, e quindi al di là del fatto che si va avanti e come si va avanti c'è un cambiamento strategico, è pronto a rinunciare alla base missilistica, è pronto a mettere in secondo piano le esigenze di Polonia, di Repubblica Slovacca e di tutta quella regione. Ecco, sono due messaggi che secondo me sono stati raccolti con una certa preoccupazione nell'Europa dell'Est. Le cose dunque tornano a cambiare, sembra quasi che sia voltato nettamente il vento, riguarda l'Ucraina, la reazione dell'Occidente rispetto all'ultima crisi del gas è stata molto diversa da quella entusiastica di sostegno degli anni 2004 e successivi, analoga la situazione per la Georgia e i tempi dunque cambiano. Io un'ultima domanda per Mario Platero, il prossimo 2 aprile Barack Obama e Dmitry Medvedev si incontreranno a Londra, sarà un primo incontro. Allora, per dirsi che cosa, eventualmente per dire che cosa al mondo e all'Europa dell'Est appunto? Guarda, per prendere le misure, io credo, ma anche conoscendo Obama, con l'ambizione di fare qualche annuncio. Obama vuole muoversi rapidamente, c'è stato già un incontro a Ginevra tra il segretario di Stato Hillary Clinton e la sua controparte russa, il dialogo va avanti, si sta lavorando a qualche cosa, che questo qualche cosa possa essere già pronto subito all'inizio di aprile, devo dire ne dubito, chissà, forse potrà essere pronto per il vertice del G8 che si terrà in Italia. Di certo si sta lavorando a qualche cosa, di certo è nell'interesse di entrambe le parti trovare un punto di compromesso, è una questione di prezzo, la Russia ottiene in cambio di un appoggio che viene richiesto molto esplicito per contenere l'Iran, ottiene in cambio qualche cosa di molto importante, una vittoria nel suo campo di casa, nell'Europa dell'Est, che vuole controllare e che in qualche modo vuole non vuole lasciare che cada sotto l'influenza della NATO e degli Stati Uniti. Grazie a Mario Platero, corrispondente, lo ricordo, dagli Stati Uniti del Sole 24 ore. 30 minuti in cronaca finisce qui. Io ringrazio anche Peter Bescapè in regia. Vi ricordo 30minuti@radio24.it per le vostre mail. E come sempre vi ricordo che radio24.it vi permette di sentire e risentire tutti i nostri programmi. Non mi resta che augurarvi un ottimo fine settimana.